Quanto, cosa ho detto? 133. Ecco, vedi? Vedi cosa faccio io poi. No, l'unico che può dire le cose giuste stasera è Filippo. Perfetto. Siamo in una. Allora, questo è Filippo Pagotto. Buonasera. Che è il secondo ospite. Amata. Cosa ha detto? Ha detto. Amata. Oh, mother. Meglio non dire, sì, o madre. Ok, esatto. Ok. Invece quest'altra voce è un po' più pagata. Lui non lo conoscevo. È il super mega galattico ospite principale della 183esima puntata del Coxo. Ciao. Andrea La Bozzetta. Ciao a tutti, buonasera. Grazie a Fedra per averci invitato. E grazie a chi ci sta ascoltando in questo momento. E nel caso poi c'è sempre il numero 333 180 94 94, ripetiamolo una volta a turno così hanno tempo di scriverlo in caso. 333 180 94 94. Bravo. Tocca a te. 333 180 94 94. Bravissimo. Aspetta che io l'ho scritto. 333 180 94 94. Ah, sta scritto. Era già scritto. WhatsApp e messaggini, ci abbiamo qua il nostro potente mezzo che ce li farà recapitare per poi riporli ai nostri ospiti. Interagiamo con ma tantissimi saranno. Saranno di tantissimi a salire sul Cox con noi. Le volte sono così tanti che non possiamo neanche rispondere in tempo. E infatti forse potremmo dire a questa moltitudine che ci ascolta anche qual è il tema di questa puntata. Che dite? Sì. Lo posso dire io che mi sono amata. Dillo. Si è creato un vuoto coxico, questo è caratteristico. Il tema di questa puntata è More Love. L'ho detto bene? Benissimo. E andiamo subito con una prima clip sonora che potrebbe aiutarci ad entrare meglio nello specifico. More Love. Vado, Pasqua. Non Google. Vogliamo fare una piccola introduzione prima o andiamo subito? Cinema. Dai, cinema. Questo lo diciamo. Sì, è cinema. Ah, esatto. È cinema. More Love, cinema. Regista e attore in studio con noi. E questo è un estratto da uno dei testi cinematografici di Amore Prossimo, di cui parleremo poi, che è sempre parte di More Love. Matteo, no. Comincia a essere un po' complicato. Ma è la numero uno. Questa. Matteo, mi ascolti? No. No, questo è la clip 1-1, allora è questo. No, è Amore Prossimo. Amore Prossimo. Casa di Adam e Stefano. È questo. Sì, è lui. Alziamo bene i volumi. Saranno solo froci. Lo sai che i froci hanno un sacco di amiche gnocche? Sarà pieno di figa così profumata e pronta per l'uso. Guarda che vanno a quelle feste per star tranquille, eh? Senza maschi lupati che li girano intorno. Appunto, penseranno che siamo froci anche noi e quindi si faranno toccare senza problemi. Vecchio, se stasera non scopo mi esplode il cazzo. Tutte le volte che l'hai detto dovresti essere come si chiamano quelli, dai, le cui tagliano il cazzo da piccoli? Gli ermafroditi. Coglione. Quelli senza cazzo sono gli eunuchi. Gli ermafroditi sono quelli che hanno tutti e due i sessi e si chiavano da soli. Ma che cazzo ne so io? Sei te, laureato. Ci capisco solo quando mi parli di figa. Più bagnata, meglio è. Beh, diciamo che allora Google Translate anticipava... il tema della giornata. Bravo Stefano, ringrazio la casa traduttrice, per favore, da parte mia, chiedile scusa. No, ma infatti la prima volta che la traduttrice è scurrile e guarda un po', che miracoli. Io stavo per dire, ma sono io? Eh no, in realtà sì, potresti essere tu, perché... Potrei essere io. Perché questo è Amore Prossimo. Esatto, è un estratto del dialogo che due personaggi hanno all'interno di Amore Prossimo. Magari diamo delle coordinate, sì, in più per far capire. Amore Prossimo è un cortometraggio. Esatto, che fa parte. Il primo capitolo di. Allora, è nella successione è il terzo. È il terzo episodio. Come Star Wars, però è uscito prima. Esatto. Mannaggia, Andrea, ma te ne preghi sempre. E appunto fa parte del progetto Love, che racchiude appunto questi cinque episodi che sono tra loro indipendenti, tra di loro sono indipendenti e raccontano delle storie complete, e ogni episodio possiede un titolo. Questo nello specifico è Amore Prossimo, dove i due personaggi protagonisti, Salvatore, che è interpretato da Filippo Pagotto. Un'interpretazione spettacolare proprio. Ho conosciuto la voce. Esatto. Avvicinati quando parli. E Giuliano, che invece è interpretato da Francesco Mastrorilli. Per dare, diciamo, delle coordinate, sono due amici di vecchia data che si allenano in un campo da basket in un parco di periferia. Quindi c'è tutta una prima parte del film dove appunto c'è l'allenamento, il training, la questa partita. Cosa molto maschia anche. Esatto. E poi, finito, diciamo, la parte sportiva, si riposano sul prato e inizia un lungo dialogo tra i due amici. E quello che abbiamo sentito è proprio l'inizio del dialogo. Di questo dialogo molto maschio. Di questo dialogo, sì, molto, molto saturo anche. Com'è stato calarsi in quel personaggio, Filippo? Cosa ti ha chiesto il regista? No, il regista ha chiesto di essere il più... di fare... Io credo che chiunque in gioventù abbia avuto un momento della propria vita in cui parlava con un linguaggio che era solo un codice inventato dalle situazioni in cui si trovava, dove quasi non riusciamo a esprimere dei concetti, ma siamo legati a questi luoghi comuni in cui si devono dire parolacce per far capire di essere forti. È una specie di linguaggio del branco, diciamo. Esatto, così. Mai tolto le parole di bocca. E quindi il regista ci ha chiesto di attingere alla nostra memoria personale. Io credo che chiunque abbia avuto, almeno in adolescenza, diciamo così. Facciamo questo subito tipo. Il test con Stefano, che è un altro maschio di là dal vetro. Maccarone. Maccarone. Come lo interpretate? È parte del linguaggio del branco? Dipende. Sì, noi avevamo non più... mi ricordo più che cosa significava, però ogni tanto a quell'età lì, all'età del branco, si diceva ci maccarone. Dicevamo maccarone. Andrea, tornando a noi, questo estratto fa parte appunto del imparo terzo capitolo di questo progetto che sarà di film e episodi di cinque episodi. Al momento ne ho realizzati due, appunto Amore prossimo e Amore primo, di cui più avanti sentiremo un'altra clip audio. Ma diciamo che alla base comune di questo progetto c'è una riflessione sulla parola, sull'uso della parola e sul linguaggio, cioè come lo usiamo, come lo sperimentiamo, come lo pratichiamo o come lo subiamo anche alle volte il linguaggio. E io sono partito fondamentalmente da una domanda: se il linguaggio che usiamo tutti i giorni è qualcosa che scegliamo in maniera consapevole o se non è piuttosto un'eredità maschilista, una pesante eredità maschilista con la quale fare i conti. E nello specifico, appunto, in Amore prossimo, quello che volevo analizzare era la volgarità verbale, cioè i due personaggi, i due protagonisti parlano di, lo capiremo meglio dalla prossima clip, comunque parlano di amici e conoscenze comuni come se fossero degli oggetti, quindi riducendoli semplicemente alla loro funzione o etichettandoli. Vogliamo sentire cazzo. Bravo Google, brava signorina Google, ottima pertinenza. La signorina Google arrossirà secondo me più avanti. Ma vogliamo sentire anche la seconda clip? Se volete, sì, ecco, man mano che faccio soltanto una piccola premessa, che man mano che il dialogo tra i due amici prosegue, diventa, diciamo, sempre più volgare, sempre più forte, perché gli amici piano piano si... Qui non è che sta un po' anticipando i tempi la signorina Google. Quello non si sa, appunto per questo è Amore prossimo, non si sa. E quindi sì, diventa un escalation di volgarità, e gli amici si confidano anche dei segreti o dei segreti più intimi. E credo che nella seconda clip uno dei due personaggi, mi sa che è Salvatore, quindi Filippo Pagotto, confessa una sua particolare passione. Posso dire una cosa? Qui la difficoltà in tutta questa operazione, soprattutto da un punto di vista attoriale, era riuscire a non giudicare quello che si stava facendo, no? O a non sdrammatizzarlo. E quindi cercare di essere seri, però, perché loro sono anche un po' puri, nel senso, non sono personaggi negativi, perché come ha detto prima Andrea, subiscono in un certo senso la loro condizione, no, di branco, come dicevi tu, e quindi sono anche un po' puri, quindi bisognava riuscire a tenere un livello che fosse serio e che non andasse sul giudizio personale di se stessi. Sì, perché il pericolo di lavorare appunto con la volgarità verbale, quindi con un linguaggio così carico, così pesante, era quello di cadere nel grottesco, nel caricaturale, sociale ed era una cosa che io non assolutamente non cercavo, quindi quello che ho chiesto agli attori è stato di non giudicare i loro personaggi e quello che dicono sono. E adesso noi sentiamo un po' che cosa sono. Sai a chi mi piacerebbe leccare la figa fino a fargliela sanguinare? A chi? A Erika. No, uomo, ma è pesissima. Una figa di legno. Oh, tranquillo, ci penso io a farla diventare in carne ed ossa, come la fata turchina di Pinocchio. Poi è troppo bianca. No, io non ci riuscirei, davvero. Mi sembrerebbe come mettere il cazzo in un'ostrica. Ma senti, ma te sei diventato frocio. Portami qua tua sorella e ti faccio vedere io chi è frocio. Oh! E dai! Poi non smette mai di parlare. Ma la figa intellettuale. Ma. Allora, che problema c'è? Basta mettergli il cazzo in bocca e vedrai che non parla più. Io per la mia autostima una botta gliela darei. Tu comunque sei malato di figa, eh? Io mangerei solo pane e figa tutti i giorni. No, anzi, mangerei pane, figa e marmellata di lamponi. Marmellata di lamponi? È presente quando le fighe hanno le loro cose? Io li mi trasformo in un cane lecca figa, vado giù di lingua. Bah, che schifo. No, ma è buonissimo. Ma fa merda. No, io lecco tutto fino alla fine. Ma va, dai, mi fai sboccare. No, è delizioso. Dai, ma lo devi provare. Io non ti voglio sentire, non ti voglio sentire. Ho un retrogusto fruttato di zinco. Basta, lo è buonissimo. Voglio sentire? Però, ma sapete che, cioè, siete riusciti, è la prima volta che il mio co-conduttore, Mr. Stefano W. Pasquini, ascolta con attenzione le clip che gli ospiti esatto. portano. E che ha riso anche magari. Ha riso, ha avuto degli sguardi allucinati, forse condivide il gusto di Salvatore per il lampone, chi lo sa. Chi lo sa. Bene. No, comunque è un progetto estremamente pulp per la fascia protetta. Ma detto questo, quindi, io volevo capire, quindi parti con questo progetto che è il terzo. Esatto. E i protagonisti sono due uomini. Esatto. Che fra l'altro io ho avuto la fortuna di vederlo qualche tempo fa e ha questo esito che è proprio, insomma, ti fa cascare la... cioè, non saprei trovare sì, la parola. Scaravoltante, perché succede qualcosa tra loro due che li porta in un territorio sconosciuto. E si crea questo vuoto che sembrerebbe quasi un vuoto coccico che gli fa vedere che qualcosa cambia nella relazione tra i due e anche nell'auto. Come si dice auto? Autostima. Autoerotismo. Auto. Che succede? Percezione del sé. Sì. Autostrada. Diventano froci. Che succede? No, non c'è un. No. Diciamo che il finale è aperto, è nel senso che. Che è libero da. Devi andarlo a vedere. Vogliamo dare un indirizzino così su dove poterlo andare a vedere? Allora, al momento purtroppo il film ancora è in un link privato perché sta ancora. Ma un trailerino? Sì. C'è un trailer che è quello visibile perché ancora sta circuitando per dei festival. E quindi finché circuita per dei festival, purtroppo non si può rendere io questo pubblico. Volevo ma diciamo, dove sono sti festival? No, perché quando l'hai girato? Allora, il film l'abbiamo girato quando? Nel 2015. Sì. Esatto. Che tempi avete avuto? Allora, diciamo, l'avevo girato in due giorni, però c'è stato tutto una preparazione, abbiamo fatto una lunga preparazione, almeno 4 giorni di prove, perché appunto per arrivare a maneggiare questo linguaggio così esplosivo e per evitare di scadere appunto nel banale, nel caricaturale, nel grottesco, abbiamo fatto un lavoro molto lungo con Francesco e Filippo di modo tale che loro sono arrivati che erano delle macchine da guerra alle riprese, cioè allupatissimi. Io e Francesco c'è da dire siamo anche molto amici, esatto, nel senso che siamo quindi questa amicizia da spogliatoio e sono anche super dotati, questo lo sai tu per sì. No, io faccio un annuncio per radio, sono normo dotato. Normo, trovo i grossi falli molto, diciamo così, volgari. Ah, ok. Lo chiederemo alla tua amichetta. Che cos'è sta amichetta? Tomata. No. Va bene. No, stavamo parlando del conflitto. Vabbè, non ho capito che io qui sono l'ago della bilancia, sì, che riporta, esatto, le cose alla serietà. Portaci. No, volevo dire che approfitto per dire anche che è stata la prima volta in cui io e Francesco ci conosciamo da una vita. E abbiamo sempre detto per anni lavoreremo prima o poi insieme e non l'abbiamo mai fatto. A un certo punto si è presentata l'occasione, che è stato questo cortometraggio. E questo cortometraggio, dopo essere stato rilasciato, è stato mandato ad alcuni concorsi, sì, e ha girato il botto. Sì, diciamo che ha girato abbastanza, ha fatto un bel po' di festival. La prima selezione è arrivata al mercato dei cortometraggi di Cannes, che non è è un mercato, quindi non ci sono proiezioni, però insomma è stato preso lì, quindi diciamo da lì poi ha debuttato al Genderbender, che è un festival appunto amico di Bologna, e da lì in poi ha girato un bel po', soprattutto all'estero. Siamo stati in Brasile, in Svizzera a Ginevra, in Francia a Parigi. In Brasile ha anche vinto. Sì, ha vinto due premi, i premi del pubblico sia a Ginevra come miglior cortometraggio internazionale, sia a Ginevra che a Rio de Janeiro. Poi è stato ad Atene, a Milano, a Catania, insomma è stato in un bel po' di posti. Adesso dov'è che va? Mi sfugge qualcosa, però. Vabbè, è lecito, anche sì, perché poi tutta la storia sarà visibile online, sì, sul link che troverete nel blog, dove sarà possibile riascoltare questa super mega galattica puntata, la 183esima, sì, dedicata a More Love, ecco. Sì, e che è da domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Yeah. L'ho detto giusto. Brava. L'ho detto giusto e 380-94-94 l'abbiamo ripetuto? Sì, aspetta, vediamo un po'. No, non ci sono domande per il momento. Le abbiamo zittiti, le abbiamo tramortiti. Siete talmente esaustivi che... No, ma è il testo. Bene, allora, cosa facciamo? Non so. Andiamo a casa. Sentiamo la terza clip. No, siamo quasi quasi lì con le pubblicità, perciò io direi che potremmo... Parliamo di altro. Potremmo mandare la nostra rubrichina di Zino, e per vedere solo se... Cazzo in mano. Mi è scappato. Per vedere se Zino, chi è Zino? Io conoscevo uno che si chiamava Zino, faceva il pusher. No. Lui ha cambiato mestiere, adesso sì? Fa l'artista, però ok, era lui. Sì, no, adesso... Beh, vuoi dire un po' tu chi è Zino? Chi è Zino? È un artista di Pescara che molto a moda, ha fatto studi classici. Ha fatto studi classici, è vero, è molto intellettuale. Per è un ermeneuta. È un energumeneuta. E ogni settimana ci dà una clip, e sono circa 4 settimane che io mando la stessa, perciò vediamo se a questo punto riusciamo a mandare un'altra oppure no. Chi lo sa? La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Da un po' di tempo a questa parte qualsiasi cosa mi viene in mente, prima o poi, finisce in pancia. Che sia commestibile o solo assaggiabile, una voracità atavica si è impossessata dei miei villi. Sarà la primavera, o forse questo tempo così scostante che crea confusione tra le folle e tra le foglie. Il messenger mi ricorda che ci sono 32 messaggi da controllare. Io intanto continuo a pensare alla pizza del chioschetto di fronte a casa. Mangerei sia la pizza che la pizzaiola, non necessariamente in questo ordine. Sì, sì, penso che sia proprio la primavera, quando i polleni si alzano leggeri nell'aria, gli amori riscaldano passioni sopite perfino nel cuore duro di Pasquini, e Bassano del Grappa torna a punteggiarsi di colori più tenui, un po' inadeguati forse, perché se è vero che una rondine non fa primavera, è anche verosimile che un lilla chiaro non fa un bel paesaggio. Stai ascoltando Coxo Spaziali. Un'igiene dentale non curata. Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale. Ed eccoci ritornati in diretta per la 183esima puntata di Coxo Spaziale, insieme ai super mega galattici ospite Andrea Labozzetta, regista e anche autore di More Love, un progetto in 5 capitoli, sino a cui abbiamo parlato del terzo, e Filippo Pagotto, che al momento è scappato in cucina. Stefano, ci sei? Io sì. Ci sono, sì, e sappiamo tutti che cosa c'è adesso? Cosa c'è? Cioè, ci sono loro. L'angolo della menzione. Era un po' sciapino come volume stasera. Ma infatti i volumi stasera sono un po' così. Sono un po' così. Però noi non ci facciamo abbattere, abbiamo le nostre belle menzioni e cominciamo con sabato 20 e domenica 21. Incontro di frontiera. Al LIV. Due giornate di workshop gratuito di teatro fisico condotto dalle compagnie Performance Persona Project Cile e Instabili Vaganti Italia. L'evento è inserito nella programmazione del 6th International Workshop Festival Performazioni, ideato e diretto da Instabili Vaganti allo scopo di legare percorsi di alta formazione per attori, danzatori, performer e artisti provenienti da tutto il mondo. Sciapino anche quello, perché non puoi fare un attimo il computer. Però sicuramente non sciapa, perché l'ho appena sentita, è la voce di Nicola Pianzolla, che è uno dei fondatori degli Stabili Vaganti. Nicola, ci sei? Sì. Ci sono, ciao a tutti. Ecco, benvenuto al Coxo, grazie per essere con noi. Grazie. Beh, allora, innanzitutto grazie e congratulazioni per la 6ª edizione di Performazioni, che è un lavoro estremamente complesso che però regala tante opportunità a Bologna, soprattutto perché si tratta appunto di una formazione di estrema qualità con artisti di prima esperienza e qualità che voi invitate nella vostra sede del LIV. Sì, diciamo che è un po' il nostro modo di riportare la nostra esperienza internazionale attraverso le tournée, la circuitazione delle nostre produzioni in tutto il mondo, qui sul territorio e a Bologna in particolare, nello spazio che dirigiamo ormai da 8 anni, il LIV Performing Arts Center, che rimane nella zona Barca, invitando quelle compagnie, quegli artisti, quei maestri della giovane scena contemporanea che noi incontriamo proprio in queste esperienze di tournée nelle università, nei teatri, nei festival. Quest'anno ci siamo concentrati sul Cile e su un confronto con la compagnia Performer Persona Project, un confronto che è nato già 2 anni fa a Valparaiso in Cile, quando sempre con questa compagnia abbiamo creato questo 3 giorni di confronto sulle pratiche performative con dei workshop aperti agli studenti, agli attori e ai danzatori cileni. Abbiamo deciso di ripetere questa esperienza dentro la 6ª edizione del nostro festival Performazioni e per la prima volta di lasciare l'accesso gratuito ai partecipanti, proprio approfittando della presenza della compagnia cilena qui in Europa. Quindi domani dalle 10 in avanti e anche domenica dal 10 in poi sarà possibile partecipare a questa esperienza. È molto particolare perché... volevo chiederti un pochino, qualche anticipazione su cosa farete. Sì, c'è una sessione di lavoro diretta dalla compagnia Performer Persona Project, la sessione della mattina dalle 10 alle 13, e una sessione di lavoro diretta da noi dalle 3:30 fino alle 6:30, e poi domani sera alle 20 c'è un incontro tra le due compagnie con visione di filmati, una conferenza sul nostro rispettivo modo di fare teatro, sui punti in comune, mentre domenica è un'esperienza molto particolare perché conduciamo la sessione di lavoro con i partecipanti insieme, quindi è un confronto tra le due compagnie tenuto aperto a un gruppo di partecipanti che in questi giorni noi abbiamo selezionato dalle application che ci mandavano con un curriculum e una lettera di motivazione, per renderli proprio partecipe di questo confronto che per noi come compagnia è il secondo che facciamo con Performer Persona Project. Per i partecipanti qui a Bologna si tratterà della prima esperienza di questo tipo. Il tema appunto è quello della frontiera, di attraversare queste frontiere, di vivere la frontiera come un pretesto creativo. Ho capito. Proprio per compenetrarla, per riflettere un po' su quello che sta accadendo anche adesso in Europa, in tutto il mondo, ma sì, anche in Europa. Indubbiamente. Infatti, caro Nicola, io spero che ci sia presto occasione per voi compenetrare la frontiera. Questo era un saluto da parte di Stefano per avervi qui insieme ad Anna Dora gli Stabili Vaganti a raccontarci del loro percorso di ricerca e dei loro prossimi progetti. E molto volentieri, non vedo l'ora. Bene, ti ringrazio tanto e buon lavoro per domani e sentiamoci presto. Grazie, un abbraccio e buona continuazione. Ciao, ciao, ciao. Ciao. 穿过边界。 Compenetrare la frontiera. Cosa facciamo intanto che andiamo a casa? Intanto che io mi dedico al telefono, leggete voi una canzoncina magari, perché no, leggete voi la seconda menzione e poi qualcuno viene a... No, perché sai com'è, alla radio di solito si parla un po' e poi di solito c'è un po' di musica, poi si parla un po', poi c'è allora beccati questa. Si parla un po', c'è un po' di musica, si parla un po'. Può bastare così, no? Sì, va bene, dai. 52 secondi di musichina va bene. Anche qua. Adoro il folk. Adoro il folk. Il folk è vita. Il folk è vita. Evita. Evitiamolo. Ah sì, ricontinuiamo con... Stiamo continuando con... Niente. L'angolo della menzione. Questa l'avevo persa. Quale? Questa cosa dell'angolo della menzione. È andata a fumare, quindi. Ah, è vero. Mm. Beh, cos'è questa del martedì 23. Bravo. Ore? 21. Ore 21. Dai, la leggo io che sono amici. Martedì 23, ore 21, per Aspera Pils, alla Montagnola di Bologna. La Pil 5 di Per Aspera si configura come un doppio evento, contraddistinto dai linguaggi del teatro performativo, Home Sweet Home, e dal live electronics, Zenith, Azimuth and Us. Lo spazio scelto è la tensostruttura del Parco della Montagnola, in omaggio al percorso di sperimentazione interno all'Accademia Invernale di Per Aspera, da cui le performance traggono origine. L'appuntamento è ad ingresso libero, quindi accorrete numerosi. Penetrare la frontiera. Si è anche ripreso il tono dello stacchetto, avete sentito? Sì. Devo starnutire. Stanutisci. Salute. 333-180-94-94. Se volete starnutire con noi, se volete mandare un sms a Feda, che poi non legge perché se lo dimentica. E io stavolta sto guardando, sto facendo la bravina. Comunque, potrei mandarne da oggi, uno io. Mandane uno. Manda sì. Da oggi, che è venerdì 21 maggio, fino a luglio. No, 19 oltre. Maggio, Feda. Perché? Io non ne posso più. Pasquo. Dimmi tu. No, allora questo lo leggo io. Dai. Ok, perfetto. Che succede? Però non leggere 21. No, cosa devo leggere? Perché hanno inaugurato oggi. Però qua c'è scritto 21. No, perché l'inaugurazione ufficiale è il 21. Oggi era per l'associazione. Vedi che mi ha fregato queste cose dell'arte contemporanea. Dai, partiamo con la menzione di interessi, vai. Da venerdì 21 maggio, Salvatore Nocera, un decennio in ritardo, et Palazzo d'Accursio. La prima mostra personale di Salvatore Nocera nella sua città natale a quasi 15 anni dalla morte dell'artista, a cura di Elisa Del Prete. Beh, vabbè. Faccio un applauso da solo, 331-80-9494, per dire che comunque la menzione speciale era letta da Dio. Compenetrare la frontiera. E io invece volevo dire che nel mio file quel testo lì non c'era, per cui ti sei dimenticata di fare salva quando... Perché l'ho fatto all'ultimo momento. E invece adesso un'altra cosa che per riprendere tempestivamente il polso della trasmissione che so fare è mandare la clip che avevo erroneamente mandato all'inizio. Sì, cosa vogliamo fare? C'è una terza clip di Amore Prossimo oppure passiamo ad Amore Primo? Dimmi tu se con i tempi... Avremmo anche i tempi per ascoltare la terza di Amore Prossimo. Tra l'altro stiamo andando verso la fascia protetta, quindi... Allora diciamo, chiudiamo con Amore Prossimo ascoltando l'ultima clip. Prego, poi... fagli una foto a quell'espressione dell'attore, perché... E poi passiamo ad Amore Primo. Tra l'altro c'era una musica di sottofondo che sembrava molto... Spionage. La colonna sonora di Utopia. Ah, ok. Allora, prima di ascoltare l'ultima clip di Amore Prossimo, ecco, do magari un'ulteriore chiave di lettura, che nel dialogo, appunto, nei due precedenti estratti che abbiamo sentito, loro nominano delle persone, appunto Adam e Stefano, Erika, eccetera, eccetera, sono i protagonisti degli altri episodi. Wow, io ti adoro! Io ti adoro. La famosa festa è il quinto episodio, dove confluiscono i protagonisti di tutti gli altri quattro episodi. Scoop per il Cox, alla Beethoven, direi. e l'uno? E l'uno è Amore Primo, e lo sentiamo dopo, quindi concludiamo con Amore Prossimo, dove si va, diciamo, verso questo famoso scaravoltamento di cui parlavamo prima tra Salvatore e Giuliano, che è stato proprio recitato bene. Bravo. Grazie. Pagotto e anche l'amico Francesco Mastrorilli, diciamo il nome, giusto? Certo, Francesco, sentiamo, che ci sta ascoltando forse. Buon Salvatore. Che cazzo sono i tentati di Talini? Quelli che fai le fighe da fuori. Da fuori? Sì, da fuori vestiti. Cosa, non li hai mai fatti? Oh, che... Dai, ti insegno io. Dai, Giuliano, fai un film. Dai, sdraiati. Ma, no, dai. Dai. Cominci così. Prima le accarezzi dolcemente le tette guardandola negli occhi. E poi con le dita le strizzi i capezzoli. Aia! Senza farle male. E poi la baci sul collo. Così. Dai, va là, che mi sbavi! Dai, stai fermo, cazzo! Non riesco a concentrarmi! Stai fermo! Poi scendi più giù con la mano e gli accarezzi la pancia e con la punta delle dita gli sollevi l'elastico delle mutandine facendole capire che la vuoi. E poi vai ancora più giù e gli metti le dita sul perineo e lo strofini così. Vedi cosa? Spazio che hai tra le palle il buco del culo. Wow! Come mai hai messo la cosa prima della pubblicità? Ma perché mi sono un attimino sei un attimino confusa? No, vabbè, dai, che cos'era questa scena? Era la chiusura sì, diciamo appunto che noi abbiamo fatto sentire soltanto alcuni estratti di questo dialogo molto lungo che i due amici hanno, e si confessano, diciamo, dei desideri intimi e delle passioni particolari. E appunto in un certo momento una delle ossessioni di Salvatore sono questi famosi tentati di Talini, e verso la fine Giuliano ritorna su questa questione e gli chiede ma cosa sono nel concreto? E non sono di Talini veri e propri, sono... Esatto, no. Sono tentati. Avviene tutto fuori, insomma, fuori dai vestiti, fuori appunto, dai vestiti. Come dice nel dialogo, è Filippo che è, cioè Salvatore appunto, che è molto da generoso. Se volessimo ritornare in quell'ambito in cui abbiamo girato, è quel momento in cui accarezzando dopo un po' il pantalone diventa umido. Era per fare una precisazione. Ma perché non abbiamo fatto questa puntata alle 11? Stanislav, non lo so. No, ma la cosa interessante che mi sarebbe piaciuto. Gentile prof, sono Liu Yang, sono pronto a fare il proprio lavoro d'arte. C'è l'idea del libro. Questo libro è tutto su di me. Prima non mi conosci, così la copertura è ambiguo. È impazzita, definitivamente. Mi sembra tutto chiaro. Io no? Credo di sapere che cosa era. Bene, volevo solo fare riflettere un attimo. Quello che si coglieva, ovviamente, sono audio registrati e non abbiamo la possibilità della forza dell'immagine. Esatto. Però l'audio di ambiente di questo giardino, in cui si sentono dei rumori di uccellini, di macchine che passano, di diciamo rumori di vita quotidiana, amplifica in maniera esponenziale la banalità di quel momento e lo squallore di quel momento. C'è una cosa molto bella nel finale in cui c'è una sospensione di alcuni minuti in cui i due protagonisti si guardano imbarazzati e c'è a un certo punto un apecar. Si sente il rumore della era uno scooter. Io ho sempre pensato fosse una peccata. No, invece era uno scooter. La squallidità più assurda, no? Quel fatto che la vita va avanti e tu sei lì col tuo dramma personale piccolo. Io penso che a Filippo dovremmo fargli fare tipo un mini documentario in cui descrive i peggio cinepanettoni in maniera assoluta, capito? Forse potrebbero farlo insieme, perché in realtà venendo in qua che sono stata sono venuta con loro, si facevano di quei discorsi sulla critica delle ultime uscite dell'anno scorso da Venezia, no? Sì, era Venezia. Beh, comunque siamo stati a Cannes ed era una discussione continua su tutto quello che vedevamo. Soprattutto le rotture di palle dei film lituani. Questa era la cosa che dominava di più. Si può dire questo? Beh, non so. No, non si può dire lituani. va bene, ok. Sì, comunque per chiudere appunto con Amore Prossimo, così chiudiamo questo capitolo. E alla fine di questo inciso io andrò con la clip. Esatto, di Amore Primo. Sì. I due protagonisti sono, diciamo, la sintesi di una cultura che è totalmente maschilista, sessista, misogina e omofoba, perché dentro questo dialogo ci hanno messo dentro tutto. E quindi, insomma, anche la scrittura non è stata semplice, no? Perché comunque mettere insieme così tanta volgarità, infatti ora vabbè dalle clip non si evince, però ci sono dei momenti o delle frasi che gli attori pronunciano in cui non ci sono volgarità, e io questa cosa infatti agli attori ho sempre chiesto: dove non ci sono parolacce non mettetele, perché come in musica una pausa, soprattutto per lo spettatore, perché si dice cazzo. Perché lo spettatore sta allargando stasera. Perché lo spettatore così si dice: oh, finalmente hanno finito, invece ricominciano ed è peggio di prima. Quindi vorrei sottolineare un'altra cosa che ho notato nel momento in cui andavamo alle proiezioni. Gli eterosessuali ridevano esorcizzando perché si riconoscevano in quello che vedevano. Gli omosessuali erano scioccati. Ta-da. Ma in effetti quello che non riuscivo a dire, sì, cioè comunque è una cosa vera, queste robe si sentono all'ordine del giorno. Quello che non riuscivo a trovare le parole prima era proprio il senso di normalità che ti dava tutto questo, cioè eri lì insieme nello spogliatoio maschile insieme a questi che avevano questo scambio tribale del loro clan di conversazione, e poi si trovavano spiazzati ed era ovvio, davano un esito all'ovvietà che chi lo spettatore già vedeva sin dall'inizio. Esatto. E quindi questo è bello. Mm-hmm. Ma è piaciuto tanto, bravo. Passiamo ad Amore Primo, che Mauro Milone ci sta ascoltando e ci sta aspettando. Esatto. Ah, davvero, ci ascolta e non ci scrive. Sì. E mo lo salutiamo in diretta. Ha scritto a me. Ah. Adesso appunto facciamo ascoltare la clip di Amore Primo, dove due interpreti, un maschio e una femmina. Sono appunto Marta e Matteo, che sono Laura Pizzirani e Mauro Milone. Bravissimi. Ed è una storia anche qui sempre con un elemento di ambiguità. Allora, alla fine scopriremo che sono fratello e sorella, ma durante tutto il film pensiamo che prima sono amici, che poi sono ex amanti, e anche il loro rapporto di fratellanza c'è un'ombra non ben identificata sulla reale natura della loro relazione. Allora io vado. Vai pure. Matteo, comincia a essere un po' complicata questa situazione. Matteo, mi ascolti? Cosa è complicato? Beh, per esempio, se evitassi di farmi trovare gente in giro per casa la sera mezza sbronza... Ma cosa dici? Stavo bevendo solo delle birre. Dai, non esagerare. Vabbè, scusa se io mi alzo presto la mattina e non sono in vacanza come te. Ma cosa credi? Che per me sia semplice? La mia donna mi ha lasciato. Le cose con il mio socio non vanno molto bene. E ora non ho più una casa. Smettila di lamentarti. La mia donna mi ha lasciato, ma come parli? Che c'è? Sei gelosa? Dai, lasciami. Sono in ritardo, devo andare. Vieni qui. Mi vuoi tutto per te? Coglione, tanto non ci casco più. Facciamo la pace. Dai, facciamo la pace. Ti prego. Com'è che non t'annoi di te stesso? Smettila di voler risolvere tutto come quando eravamo piccoli. Io non sono la mamma. Certo, dimenticavo che Miss So Tutto Io ha sempre la soluzione pronta. Chissà com'è che non ti si fila nessuno. Vaffanculo. È la verità. Sei rigida, triste. Nessuno ti cerca, non esci mai. Stai sempre chiusa in casa. Neanche il gatto ti sopporta. Che fascino. Vi saluta anche la Irma Ridolfini. Che... No! Sì. Ciao Irma. Ma com'è che saluta te? C'è anche non lo lei. So, ha risposto a un mio messaggio che le avevo scritto tipo 3 mesi fa. Così. Oggi. Adesso. Infatti le ho mandato. Ciao Irma. Le ho mandato una foto dicendo sono qua e lei mi ha detto saluta Filippo. Va bene, a questo punto, prendendo. No, tanto per non essere autoreferenziale. Prendendo uno spunto dal saluto di una ex co-conduttrice coxica occasionale, mm-hmm. E salutiamo anche il. L'ultimo ospite telefonico della 183esima puntata. Come si dice sempre, last but not least, l'ho detto giusto, mm-hmm. L'ho invertiti. Beh, no, insomma, comunque, bene. Direttamente da Roma, il coprotagonista del primo episodio della quinquologia, come si chiama? Quinquologia. Come vuoi tu? No, come Morlov, il progetto è Morlov. Ma come si dice pentagonia? Non ne ho idea, no, ma quinquologia mi piaceva. Bello, è vero. Io adoro le parole inventate, quindi quinquologia mi va benissimo. Quinquologia suona bene. Mauro Milone, che ne dici? Pentalogia sarà, no? Buonasera. Ciao Mauro. Mi sentite forte e chiaro? Forte e chiaro. Ciao Mauro. Allora, qui da Roma si ascolta Radio Fujiko e Coxo Spaziale, anche qui nella capitale dell'Italia. Wow. Benissimo, e con questo siamo 2 ascoltatori, Irma e Mauro, grande. C'è anche Federica che è dall'altra parte della stanza ti sta ascoltando. Ciao Federica. Noi 3 fa 6, ah no? Benissimo, ottimo. Comunque volevo dirvi che a me piace molto la parola inventata, pentalogia. Grazie. Pentalogia. Pentalogia. Ma quincologia è più bello. Penta. Buonasera, come state? Sono molto emozionato di stare lì da voi, come se stessi lì da voi. Sono molto molto emozionato. E dove sei? Sono a Roma nella mia stanza di quarantena perché sto uscendo da un virus letale che non è il coxo spaziale, ma è un banale VZV. Anche detta Airpex Varicella. No, sono io? Sì. Ma te lo sei preso a fare le cose strane con tua sorella durante le riprese? Siccome la nostra madre non ci ha vaccinato. Ah, un tema molto. Non ci ha vaccinato né a me né alla mia sorella Marta. È possibile che l'abbia presa a 35 anni. Ah, tra l'altro, potevo fare in diretta, prima di parlare del film, mi scuseranno, ma volevo fare in diretta gli auguri al mio collega coattore, che credo che siamo nati lo stesso giorno. Cioè ieri. Sì, hanno fatto il compleanno. Ieri, che è stata la giornata peggiore della mia vita, compivano gli anni 2 super mega galattici gnocchi. È pazzesco. Ma quindi, Mauro, tu quanti? Auguri a Filippo. Io ne ho fatti 35. Oh. Mi separa un lustro. No, ci separa proprio tanto tempo. No, un lustro. 5 anni. Vabbè, un lustro. Forse è una lustrologia. Esatto. Una volta che forse, esatto. 40 anni, insomma. Comunque faccio gli auguri anch'io a te. Io ne approfitto anche per salutare Laura Pizzirani, che avremmo voluto chiamare, ma purtroppo, come tutte le attrici, lavora in un ristorante e quindi questa sera era impegnata e non può essere con noi. A grande proposito, Laura, speriamo, sapete di ristorante che cerca? Questa sera suggelliamo un patto per cui mai più gli attori e attrici ai ristoranti. Come? Basta. Oddio, sì, basta. Qualche bar, volta per mangiarci o nelle piccole pause. Sì, ma non schiavizzati, diciamo. No, assolutamente no. Ma io sono anche un fautore del ristorante, perché svaga, e poi facciamo poi Million Dollar Baby, che proviamo le nostre parti mentre serviamo ai tavoli, prepariamo i passi di danza. E a proposito, dimmi un po', com'è stato il lavoro di preparazione alla ripresa per questo cortometraggio? Amore Primo. Per Amore Primo. Entriamo più nello specifico, sono d'accordo con voi. Allora, devo dire che rispetto ad Amore Prossimo, il lavoro di Amore Primo è stato totalmente diverso, perché Amore più difficile prossimo, anche altro, guarda, difficile, sicuramente sono stati difficili tutti e due, perché le gradazioni sono leggerissime, le sfumature sono leggerissime, ma anche completamente opposte. In Amore Primo la vera sfida era rendere, in questo la sceneggiatura di Andrea è stata di grande aiuto, è stata molto, molto precisa e puntuale, era quella di non rivelare il vero rapporto tra queste due figure, appunto come ha detto Andrea all'inizio. Lo spettatore appena vede i primi minuti di film pensa che loro due sono semplicemente due amici, cioè lei sta ospitando questo, esatto, barbone nella sua stanza, in un divano, e quindi si crea un'atmosfera familiare tra amici. Poi a poco, come le vere sceneggiature, questo rifaccio complimenti. Bravo, le vere sceneggiature fatte scritte bene iniziano a complicarsi. E lo spettatore si trova a dire: ok, aspettate un attimo, rifaccio tutto il mio set mentale, cosa sto vedendo? Perché i due sembrano invece due amanti, due ex fidanzati. Per poi scoprire, questo insomma, infatti io non lo volevo dire, ma il regista ha già rivelato tutto. Infatti, anche io me l'aspettavo che lo dicesse, suo amore prossimo, ha aspettato proprio fino all'ultimo, invece qui così, papà, ce l'ha detto. Papà ce l'ha detto, il rapporto, l'amore che lega queste due figure è l'amore primigenio, ovvero sono fratello e sorella. Fraterno. Sì, anche lì però non si capisce bene su che basi è la loro relazione. Perché in realtà c'è, come ci hai anticipato, è suggerita questa cosa, nel senso non c'è qualcosa che lo esplicita in maniera diretta, però ecco, bisogna vedere il film, perché c'è un momento in cui lui la afferra e la prende e lei diventa rossa e l'abbiamo ascoltato nella clip e dice: tanto non ci casco più, e quindi lì si capisce che forse insomma questo rapporto di fratellanza ha avuto delle altre sfumature, questo amore primo che continua a risuonare di possibili interpretazioni. Esatto. Sì, sì, sì, sì. Caro, e la voce rispetto ad Amore Primo, ad Amore Prossimo, velocissimo, il lavoro sul linguaggio, qui invece volevo focalizzarmi proprio su le manifestazioni più scontate del quotidiano, quindi Matteo e Marta, i due personaggi, incarnano proprio la mediocrità del quotidiano, parlano per frasi fatte, per frasi di circostanze, insomma sono proprio... Con un tono che è anche molto glaciale, quasi. Assolutamente, infatti per questo asettico. Mi complimento con loro, perché io gli ho chiesto volutamente una recitazione antinaturalistica, quasi proprio al limite, proprio perché non volevo che ci fosse empatia, cioè un certo tipo di empatia, nel senso che loro a un certo punto, come abbiamo sentito nella clip, si iniziano a picchiare. È finito Cox Spaziale. Ah, così? No, sono le 10. Vabbè, dai, un minutino in più, abbiamo iniziato anche dopo. È vero, è vero. Così concludiamo. Loro si iniziano a picchiare e si offendono con una sorta di cinefilia rovesciata, che lo possiamo rivelare. La sorella gli dice: mi fai cagare, tu e i tuoi amici fighetti sembrate usciti da un film di Muccino. E il fratello risponde: ma sarei meglio tu, tutta drammi e introspezioni, come un film della Comencini. E questo qui è amico di quelli dell'altro film? O è lei? Poi ti meravigli che non ti chiamano nel cinema. Diciamo, Matteo e e Salvatore sono amici. C'è un momento del dialogo tra fratello e sorelle in cui gli chiede: ma non ti dovevo ospitare Salvatore? Quindi è il tuo nel amico. Nel cinema di Andrea La Bozzetta i personaggi si celano. Dove sono? nessuno li trova. Sono persi nelle pieghe del linguaggio. Si perdono nelle pieghe del linguaggio e non ci sono più. Più. Coxo spaziale è stato bello e ho pianto tanto. Faglielo dire in cinese però adesso, scusami. Un commento, Mauro. No, volevo dire semplicemente che questa è una cosa molto affascinante perché i rapporti tra i personaggi non finiscono qui, ma oltre che implodere dentro il film, poi esplodono al di fuori dell'opera, perché appunto il fatto di essere dentro una penta o quintologia fa sì che siamo tutti all'interno di un altro calderone, cioè la storia vera e propria, quello che mi è piaciuto interpretare questo film, come anche a Laura, è stato interpretare un film che frammento in relazione. Come nei vecchi romanzi di una Zola, costellazione, sì, una come stella. Vecchi film a episodi degli anni 50 e 60. Poi si dovrebbe anche dire che ci dovrebbe essere, no, dillo, questo ultimo progetto in cui li rivediamo tutti, no? Festone. Sì, forse è passato un po' troppo tempo e non so se riusciremo a montarli tutti e cinque insieme. Però l'idea è quella di girare adesso gli altri tre episodi che restano insieme e di mettere almeno questi tre insieme. Quindi perché avremo gli anni passano, gli attori invecchiano e cambiano. Già Filippo non è più lo stesso. Ma io ero già così. Però si vede che durante la trasmissione, mentre ascoltavo la clip, stava ritornando identico a quello che era, cioè veramente faccio tutte le vostre mimiche. La sfida è vedere questi personaggi fra 35 anni. Esatto, infatti. Cioè dalla scena della colazione a quella dello sport sono passati 5 anni fino alla festa. Io sono d'accordo con Mauro. Il grande cinema. Non ti avvicinare troppo che c'è il vocione. Il grande cinema lavora sempre sul tempo. Ecco, sentite questo monito. Facciamo anche un appello, siamo in cerca di produttori, quindi se c'è qualche produttore bolognese che si è appassionato a questo progetto e che vuole aiutarci a produrre gli altri tre. No, se per caso vogliono, anziché ascoltare Radiologi, stanno ancora ascoltando Coxo Spaziale, se vogliono mettersi a produrre. Allora, io vorrei assolutamente essere tenuta al corrente per gli episodi 3, 4 e 5. No, 2, 4 e 5. Perché questa lustrologia mi sta in trippa. Oh. Va bene. Salutiamo tutti gli ascoltatori. Ciao Irma, ciao Mauro. Ciao Mauro, ciao Federica, ciao, era l'amica di Mauro. E Irma. Federica è la mia futura sposa. Mamma mia. Annunciamolo in diretta. Wow. congratulazioni. Che dire? I presenti sono tutti invitati, ovviamente, no? Facciamo una puntata del Coxo sullo sposalizio. Venitevi a sposare a Coxo Spaziale. Esatto! Facciamo una roba spaziale, assolutamente. E con questa. Grazie a tutti e vi bacio. Grazie a te, Mauro. È stato bellissimo stare lì con voi. Come se fossi lì con voi. Torna presto. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.